Eccoci qua dopo aver sanificato, perché tra un turno e l'altro giustamente lo facciamo, ci vogliamo bene e quindi adesso è tutto a posto. Olio di gomito e alcol e adesso prove tecniche di trasmissione. In onda da adesso sino alle 22:30 circa, 25 o'clock ancora non andrà in onda e quindi il nostro sito è www.ondarossa.info per lo streaming. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Domani su prove tecniche di trasmissione / disorder e sul sito della radio ci sarà naturalmente il podcast di questa trasmissione di oggi, 30 settembre del 2020. Peraltro oggi è l'ultimo giorno utile per aderire al nostro crowdfunding, questo radio abbonamento di 30 euro annuali. Quindi chi volesse ancora in tempo può andare sul sito della radio e cliccare sul banner specifico. Saluto Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Cortina d'Ampezzo con Tabula Rasa, Gennaro D'Elena di Eastern Lake, dalla campagna, credo proprio da Napoli. A Roma Marco Iacomini. Il medico della peste, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Il buon fantasma, il satanista, un abbraccio a lui. Giovanni Lisi de Bari, Laura Spirit Crusher da Frosinone. Qui a Roma abbiamo Iris Blu e Ernesto Dark Phoenix Galli. Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, Fulvio Biondo di Storer Lodge. Anche oggi un viaggio attraverso l'universo Murkoff e lo facciamo attraverso il suo ultimo lavoro Lost in Time, uscito però, cosa pregevole, per questa etichetta romana, la Glacial Movements di Alessandro Tedeschi, se non erro, e questo è il nome del fondatore. Trattasi di, chiamiamolo anche Dark Ambient, perché no, particolarmente godico il profilo scelto da Murkoff, e non è capitato spesso, pur rimanendo e permanendo in quel ambito che va dall'IDM all'ambient per l'appunto. Ci ascoltiamo chapter numero 5, 6 e 8. effettivamente, come molti si saranno accorti, c'era un problema qui nei vari macchinari. Spero di aver risolto il problema. Comunque, a scapito di equivoci, ci andiamo a risentire la sesta traccia, che purtroppo è andata soltanto con un canale unico, e quindi credo che la cosa non dispiaccia, e quindi ci risentiamo appunto il capitolo quinto, e poi concluderemo con il capitolo 8 che già avevo preannunciato prima. Queste prove tecniche di trasmissione, più che mai stasera devo dire, 21:19. Un inizio dunque intenso, molto evocativo, ad opera di Murkoff, attraverso questo Lost in Time, suo ultimo, penultimo lavoro, uscito per la Glacial Movements, etichetta romana. Fernando Corona, lo ricordiamo il vero nome, di origine messicana. Saluto Dario Righidisi di Progetto No Name. Un saluto alla Lupsi, Lucia Cagliazza, che a breve stamperà un album insieme a Michael Bonaventure dal nome Across the Blood, e chiaramente io ed altri saremo molto curiosi di apprezzare questa opera che si preannuncia molto interessante, tenendo conto dello spessore di questi due talenti. Andiamo avanti, lasciamo Murkoff, andiamo alla Nespless Sounds Group di, e label naturalmente, di Raffaele Pezzella. Questa volta abbiamo qui sotto mano questa compilation che fa il punto della situazione della scena balcanica, che naturalmente conserva dei tratti misteriosi, ma che grazie a Pezzella ci ha permesso di venire a conoscenza di talenti veramente nascosti. Questa sera è il turno di Atuk en Zianzin con Relapse Mechanism, e poi l'albanese Jeton Oxa con Effect on Living Things. Come già preannunciato, eccolo qua, Jeton Oxa dall'Albania. Effect on Living Things, sempre da questo Balkan Region Music Survey. Indubbiamente è sempre interessante attingere da queste compilation di Raffaele Pezzella, nello specifico Anthology of Post-Industrial Music from Balkan Region. Nello specifico Atukhen Zianzin e Jeton Oxa, i due artisti, i due progetti di questa sera. Ancora etichette italiane, torniamo a Roma con Hellbones Records del buon Daniele. Una delle etichette più attive degli ultimi tempi, e questa sera andiamo ancora una volta all'ennesimo passaggio di questo split tra Wear and Tear di Davide Bacci e Petrolio di Enrico Cerrato insieme al nipponico Yuko Araki. Quindi questa sera ci ascoltiamo Asfalto 194 e Strappi, dove si uniscono i clanglori industriali di Petrolio con il death ambient molto ruvido di questo artista giapponese. Il titolo dell'album è Omen 300-32019. Spero che la voce si senta, mi è venuto un dubbio ora, penso che si sia sentito quello che ho detto. Grazie comunque a Serena che ci ha avvertito. Dicevo dunque Petrolio e Yuko Araki con queste due tracce da Hellbones Records, questa etichetta romana. Due tracce, Asfalto 194 e Strappi. queste settimane dunque ci ha accompagnato questo Omen 3003-20019, questa collaborazione tra Wear and Tear, Petrolio e Yuko Araki attraverso l'Hellbones Records qui di Roma. Saluto dunque di nuovo Serena, la ringrazio per le comunicazioni pronte sulla qualità del suono, della voce, eccetera. Peraltro devo anche ricordare che in questi giorni c'è stato brutto tempo qui a Roma, quindi abbiamo avuto dei problemi soprattutto a livello di ricezione FM, mentre lo streaming in questi giorni è andato abbastanza bene, cosa che sta andando anche questa sera, quanto vedo e leggo. Un saluto a Enrico Cerrato in quel di Asti e il suo progetto Petrolio, andato orora in onda. Andiamo avanti, andiamo a trovare Philippe Fichot e il suo progetto Dieform. Di tanto in tanto andiamo un po' a ritirare fuori dei dischi ormai sepolti dagli anni che sono passati, ma che conservano un fascino, devo dire, intatto. Ed è il caso, per esempio, di questo Virgin Flevo Dieform numero 2, un album del lontano 1981. Questa sera ho scelto la quarta, la quinta, la sesta traccia dal nome States, Usage e Examination, che ci regala un Philippe Fichot ancora nell'alveo della sperimentazione di allora, una magnifica stagione di inizio anni 80 che vedeva protagonista anche Dieform, ricordo, proveniente dalla Francia attraverso la Ben Total, la sua etichetta. Era dunque Die Form, da questo Virgil Flavor, il secondo lavoro. Chiaramente io vi chiedo sempre di rendermi edotto sulla qualità del suono di ciò che sto mandando, perché come ho detto questi giorni abbiamo problemi sia in FM in parte con la strumentazione qua. L'unica cosa che sta funzionando veramente alla grande sembrerebbe lo streaming.